Radio 24 Reportage. Nord Kivu, la resistenza del Virunga, di Giampaolo Musumeci. L'altro côté nous avons une autre femelle, c'est Maisha, ici c'est Ndakasi, et l'autre derrière Ndakasi c'est Ndeze. Oui, Ndakasi. Sono decisamente un ospite inatteso e la mia presenza accende la curiosità di Maisha, Ndesi e Ndakasi. Attraverso la gabbia Maisha allunga fulmine a una zampa per poter afferrare il microfono. Maisha ha 11 anni, Ndesi e Ndakasi ne hanno 6. Sono 3 gorilla orfani che, salvati dai rangers, hanno trovato pace e una nuova casa all'interno della direzione del Virunga Park nel villaggio di Rumangabo. Sono in Nord Kivu, regione dell'est del Congo, al confine con Ruanda e Uganda. Tra gruppi armati, ribellioni, risorse minerarie e uno stato fragile che mal controlla questa remota regione, un manipolo di guardia parco conduce una battaglia senza tregua per salvare uno dei più preziosi ecosistemi al mondo. Jambo? Jambo sana. Abari? Mazuri. André Bauma, il guardiano dei gorilla, si presenta con un largo sorriso e una stretta di mano forte e non fa che parlare dei suoi piccoli gorilla, spesso bersaglio dei bracconieri. Con soddisfazione mi racconta che almeno i 3 cuccioli sono stati salvati dalle mani di chi voleva lucrare sulla loro pelle. O meglio, sulla loro carne, che cacciatori senza scrupoli vendono a prezzi altissimi, almeno per il mercato locale. Un cucciolo vivo di gorilla, pensate, può valere anche $40,000. Io sono come la loro mamma, mi spiega, perché abbiamo trascorso tanto, tanto tempo insieme, giorni e notti, nello stesso letto, mentre gli davo il latte con il biberon. L'amore per questi animali, per il parco, è immenso, lo si percepisce dalle parole di Bauma, lo stesso amore, la stessa passione che brilla negli occhi di Emmanuel Demerod. Incontro il direttore del parco tra una riunione e l'altra. Sono tempi concitati e tesi quelli che lui e il suo staff devono affrontare. La guerra tra i governativi e i ribelli dell'M23, la cui base è a 5 km da qui, i gruppi armati, i bracconieri, il parco è minacciato da numerosi nemici. A Emmanuel Demerod chiedo innanzitutto come vede l'evolversi della situazione da quello che è, nel bene o nel male, un osservatore privilegiato delle vicende congolesi. La situazione al momento è molto difficile. Negli ultimi 12 mesi siamo stati sempre in pericolo perché il Virunga National Park è al centro di un conflitto e noi dobbiamo convivere con questa situazione, il che significa chiarire la nostra presenza con le autorità che ci permettono di continuare a proteggere il parco, sia nelle aree sotto il controllo governativo, sia in quelle in mano ai ribelli. Tutto ciò è complicato perché i ribelli combattono il governo. E noi lavoriamo per il governo. Perciò dobbiamo sempre negoziare con tutti e siamo riusciti a strappare un accordo che ci ha concesso di continuare a proteggere il parco e soprattutto i gorilla di montagna, che si trovano tutti nelle aree controllate dai ribelli. È difficile, c'è molta violenza, ma siamo riusciti a continuare a lavorare e a mantenere il parco ragionevolmente sicuro e i gorilla in salvo, anche negli ultimi tempi in cui gli scontri sono stati particolarmente duri. Over the past period of violent conflict. Negoziare con i ribelli, collaborare con i governativi, il lavoro di Demerod e del suo staff non è facile. Alla conoscenza della biologia, dell'antropologia, Demerod è peraltro antropologo di estrazione, si devono affiancare non comuni doti diplomatiche. In Congo c'è una cultura molto forte e molto diffusa per quanto riguarda la protezione degli animali selvatici. Per cui, da molti punti di vista, non è così difficile come possa sembrare, sia rispetto all'impegno del governo a proteggere il parco, sia rispetto alla comprensione da parte dei ribelli a lasciarci continuare il nostro lavoro. Perciò, in realtà, non è poi così complicato. È questione di essere aperti e onesti rispetto alle nostre intenzioni, che sono semplicemente continuare il nostro lavoro di salvaguardia. Fin tanto che ci siamo limitati a questo, entrambe le parti si sono dimostrate abbastanza comprensive. Lavorare nel parco attraverso numerose frontiere

È un lavoro estremamente pericoloso, specie qui in Nord Kivu, perché le zone che dobbiamo controllare sono proprio quelle dove vi sono le maggiori risorse naturali e anche dove i banditi cercano di fare i loro traffici, le zone in cui vanno a caccia di avorio, dove praticano la pesca illegale e dove l'unica sorveglianza è affidata ai gruppi di ranger. E questo, conclude, rende il nostro lavoro davvero pericoloso. Dal 1994 più di 150 ranger hanno perso la vita nello svolgimento dei loro compiti. I ranger hanno un standard di addestramento e di qualità della vita nettamente superiore rispetto ai soldati governativi congolesi, per esempio. Mangiano 3 volte al giorno, il che è un evento eccezionale per un militare qui. Sono stati addestrati da istruttori europei e quindi sono tecnicamente e militarmente ben preparati. Gli ultimi turisti nel parco del Virunga si sono visti nel maggio del 2012, prima dell'ennesima ripresa dei combattimenti tra i ribelli dell'M23 e i governativi. I visitatori venivano dal Belgio, dagli Stati Uniti, persino dal Giappone. La speranza di Emmanuel de Merode e il suo staff è che torni la pace presto nel disastrato Nord Kivu e soprattutto nel gigantesco parco del Virunga, un'oasi, un paradiso, un patrimonio per l'umanità che 200 agguerriti guardiaparco lottano ogni giorno per mantenere in vita, anche a rischio della loro. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.